My father's name was Elijah, and my name is il primo che fa battute sul fatto che stasera fa caldo gli do un destro, ragazzi. No, deve fare. Succede un casino. È bene che sia caldo. Di buono, cioè, arriverà prima o poi. Io, infatti, cioè, arriva il caldo e mi sono preso subito il mal di gola. Bravo, Ciccio. Arriverà il condizionatore. No, no, non è il condizionatore, è il motorino. Allora, saluti ad Andreino Mi. Sì, che stasera non c'è. Vabbè, non c'è stasera, ma insomma. No, non ci sarà più. Mi sa che non si rivede fino a settembre. Lo rivedete a settembre. Lo risentite a settembre. Ve lo risentite a settembre. Ma dov'è? Sempre a, no, no, no, a Barcellona? No. Da Barcellona credo andesse direttamente in Salento. A Casina? In Salento. Bon. Noi invece siamo qua a schiantare fino non si sa quando, insomma, ora... fino a settembre, no. si tira dritto quest'anno. Decideremo fin quando trasmettere. Nel frattempo che suona Bubu, magari noi ci informiamo se succede qualcosa in town. Facciamo un paio di telefonatine per sentire se succede qualcosa. Molto. Molto, sì. Di solito ci pensa Andrea a questa cosa. Infatti, lui, quindi quando non c'è Andrea, praticamente non succede nulla. Noi di solito non usciamo di casa, no, e quindi infatti ce ne freghiamo altamente. Sì, sì, infatti, non sappiamo niente, quindi stiamo a casa. Insomma, facciamo conto che non ci sia niente a Firenze. Vabbè, va. Bubu è pronto. Noi, lo sapete, andiamo fino alle 22:30. Il numero di telefono te Senza lo ricordi? Paura, il numero di telefono. Zero! Figurati, se me lo ricordo, zero. Ci sarà scritto da qualcosa. Vabbè, Massimo, ti do quello dei vigili urbani. Ma è sempre così: c'è scritto i numeri dei vigili urbani, l'emergenza, una cosa o un'altra. Cioè, non c'è scritto il numero di telefono di sta radio. Se ci volete chiamare, andate su www.controradio.it e cercate il numero di telefono. Se ci volete chiamare, sbattetevi e andate a cercare il numero di telefono. Se no, non ci chiamate e sa tutti. Se ci volete scrivere, info@ragnampaisa.com. Ecco, bravo, chiaro. Vai, Ciccio! in a club. Now I'm drunk, having a bad dream. This motherfucker tried to greet me with wealth. I never knew that I would see the day that I would meet the devil himself. This nigga was eagerly waiting to prove it, astonishingly. Already dancing to his own burial music. Well, anyway, he plotting to do it to me. In a certain kind of way, it started off directly popping shit to me. And while he spoke, a couple fires would spark. While he sat in the shadow talking his shit, he watched the sky getting dark. He said, you put the back man out to leave you in a rug sample. Stay there reeking in the back of a church. Then it goes to the crib and haunt you like a ghost in your home. Leaving you old and decrepit like the ruins of Rome. Watch your body shrivel up and turn your ashes to stone. Fuck your flesh, don't let your blood suck the blood out your bone. I'll be the nigga that'll torture your spouse and leave a thousand body bags like Truth.com in front of your house. Yeah. Just sound like 1-2 o'clock in the morning with the full moon out. Niggas in their trucks creeping with a fresh box of ecstasy pills for these bitches. Yeah, team select, please collect G's, connect these, nigga, direct the trees to the smoke fest. Wanna take a tote? Yes. The newest zone I'm in, I'm like Smithsonian, nigga, fuck it, call me Napoleon. Wave the torch, cut the head off the Leviathan. The terminology I'm rhyming and cause a frenzy up in Ireland. I hit ya, I'm gon' get ya, and drop the bomb script ya at your bar mitzvah. Yo, max it out, blast through the speakers. With a wife beat her on, Bushy Valor, a new pair of sneakers. Street niggas hang on the sidewalk, that's where I learn my fly talk. Pimp strut and how to skywalk. Moderate and how we establish the whole conglomerate. The way we honor it, you'll never conquer it. I see how we rap has a global effect on even Polish people. Young and restless down to the old and feeble. Peep them, Czechoslovakian and Yugoslavian niggas. Be all into my bounce, so don't be bothering niggas. So now, you should feel the whole cathedral is bounce. Put one in your stomach, leave you in a fetalish crouch, nigga. My vernacular is spectacular. Strategic plan to have you looking wacker than a postal office massacre. Is that so? Make moves just like a fatso. Bounce in the minivan Astro. After my gap, after my gap, after my gap, after my gap. season two on six video cassettes with two episodes in each one, which that features the gift and a case of the hiccups, the Little Mouse Hollow and Babysitting Blues, the Lost Mother Lone, that's what friends are for, Bill the Cat and Pavel Lonesome Ranger, Mail Order Mayhem and Law and Disorder. Finally, a mouse known as Zorowitz and Aunt Sophie's Visit. No, the mouse is known as Zorowitz is Bible. But, because I saw him before. What are you going to say to the level two? I'm going to get a snack and drink. I'm Yeah, man. Mixed between Dolomite and Elliot Ness. Bless. Senti, senti come la impasta, Bubu. Madonna, non c'è una pasticca per il mal di... cioè, una pasticca che la prende e ti passi mal di gola. No, mi sa di no. Ma non mi ero accorto, era mezz'ora, ci stava chiamando per dire, oh, cioè, finito. Avrei finito, stava rimandando il suo pezzo. Stava facendo cutting. Vabbò. Facciamo, parliamo di questa storia qua. Parliamo. Parliamone. Parliamone. No, in pratica è una storia che... dove ci sta dentro Christian del vinilificio. Di Bologna. Di Bologna, che mi ha... che mi ha mandato un'email per segnalarmi questo progetto che mi ricordo anche l'anno scorso fecero, ma lo ricordo perché c'era in c'era Deda Kazuma in mezzo. Dici, in pratica si chiama Original Cultures e parte del progetto di Bologna estate 2011 e quest'anno in pratica c'è una nuova produzione che prende ispirazione da un racconto di Valerio Evangelisti e che vede lavorare per una settimana dei musicisti produttori insieme per fare un lavoro inedito. E in questo team io dico ora i produttori perché insomma poi c'è nel mezzo robe di visual lungo, sì, eccetera. Poi a chi gli interessa se va a vedere il si va a vedere il sito, programmino, sì, che dopo diciamo. In pratica c'è Architect, Bikyun, Ed, Mannaman, che è Alessio Manna sarebbe, Danilo Mineo. E questa roba c'è il giovedì 23 giugno. Il prequel. Ci sarebbe, sì, il prequel a questo Bartle Bay, che è in via San Giovanni Petronio Vecchio, gratis. Dove c'è dalle 19 la presentazione del progetto, la proiezione in anteprima di From Inner Space, che è il documentario che gli Undervilla, ovvero gli amici Uzi e Gatto Uzi e, e Gatto Mao, che fecero appunto sulla, su Original Culture 2010 dell'anno scorso con Kazuma e The Expanded Disco Machine e poi DJ set di Aerosual, Error Broadcast e Keeper. La roba invece proprio vera si il main event si svolge il 25 all'Arena Orfeonica. Ingresso 5 euro. Una roba che inizia sempre dalle 19 con aperitivo e vai a star bene. E poi c'è dalle 21 Architect che fa solo showcase. E poi solo alle, 20, alle 22 solo fa cioè, fa solo showcase. E poi dalle 22 c'è The Formula From Word to Sound, appunto il progetto che parlavamo prima. L'after party è al Vicolo Bolognetti e parte dalle 24 con DJ Lelli. In ogni caso www.originalcultures con la S finale .com, poi sì, addio, .org, vedo, ho sbagliato subito, .org, originalcultures.org, andate lì, vi vedete teaser, vi vedete tutte le info, tutte le persone che ci sono coinvolte. Blog, ci dovrebbe essere un podcast, non so se c'è già o ci sarà a brevi giorni. Basta. Nulla, basta, mi sembra di aver detto già abbastanza. Due foglie d'appunti, non so dopo, che, santo, che puoi dire. Vedrai. E che vuoi, mi ricordi tutte le cose a memoria. Vabbè, basta, anche basta, no? Anche sì, anche basta. Anche basta così, c'hai biga per i soliti 20 minuti. Poi ora nel frattempo ci inventiamo qualcosa da dire quando ritocca a noi. Stateci quando buoni. Quando ritocca, ritocca a noi. Rintocca a noi. Rintocca nelle campane di cervello. Sì. A dopo. senza però opera, come il fantasma dell'opera, fax opera, il fuoco ti prepara, l'ansia impera, impara, da animali vari come nel kung fu, chiuso in un igloo, studio i tabù d'antiche tribù, guarda in su, il cielo non c'è più e ciò che tu respiri non è aria, indosso il rap come l'impunità d'un paria, pari a tre tabù, mangio male scupe, faccio muovere frasi come gli insetti in Starship Trooper, niente super, super, super il beat, la galassia la mia suite, niente list, giro col mostro di Hit, Ice Speed, fire come un drago, droghe dragano il tuo ego, al tuo alter ego, aggrego e Gregore non prego, prediligo. Chiamami Wendigo, dolgo a un golem di Praga, il mio virus si propaga, bevi la pozione della strega, incantesimo di Vega che vaga nel cielo, mi cielo nel buio, il buio cerimonio. Oh. Seu sorriso enquanto as outras passavam. Eu me mantive omisso, cê fazendo linha dura, tentando me impressionar. Eu cheio de vergonha, sem saber o que falar, mas o bagulho ficou sério. Eu entrei num caso sério, gostei do seu mistério. Preciso falar que eu tô querendo um pouco mais. Que beijo no rosto e nas despedidas de mau gosto. Ver você se afastar, isso atrapalha, mas preto são só boatos. Larga essa incerteza e vamos voltar aos fatos. Deixa que eu te pego pelos braços e boto na parede de volta nossos retratos. Que aí ninguém me atrapalha. Sou só eu e você de rolezinho na praia. Olhei nos seus olhos, te peguei no cerol. Agora eu vou falar pra você qual vai ser antes de ver o sol. Pretinha, para de intriga e vem. São só boatos, deixa que tá tudo bem. Elas dizem que eu não presto, mas eu tô pronto, disposto pra te fazer o que quer. Pretinha, para de intriga e vem. São só boatos, deixa que tá tudo bem. Elas dizem que eu não presto, mas eu tô pronto, disposto pra te fazer o que quer. A noite trouxe de agora. Já sei mesmo. E agora? Ah, e aí? Então me diga. Me diga agora. Agora. E agora? Me diga agora. Uma das primeiras do Simples. E agora? Na base do Crumb Snatcher. Nuts. Me desculpa se eu falei a verdade, mas nem metade eu te falei ainda. Já te falei como eu te acho linda. Eu sei que já, mas é só pra reforçar. Já que você me pediu pra falar, eu posso afirmar que no começo nem era essa a minha intenção. Acho que não queria mais que o mínimo de atenção, mas não posso negar a atração inicial. No dito popular paguei um pau, mas só olhei de longe e respeitei seu olhar. Não sei porquê, mas vi que ele pedia pra eu me afastar. Aliás, que razões te dei pra não gostar de mim? Olhou, não gostou e pronto, fácil assim. Não, senhora, agora sabe como eu sou, né? Um pouco diferente daquilo que cê pensou. Mas sem ressentimento, o que importa é o sentimento que aumenta a cada momento. E eu nem tenho como controlar. Deixei rolar, achei que ia passar, mas não passou. Aumentou e eu resolvi convite falar. Eu não podia mais deixar pra lá, tinha que arriscar, mesmo não sabendo a sua reação. Abri meu coração, mas não pra te causar problema. Eu não sou Nelly, você não é Kelly, nada de dilema. Só peço que você seja sincera comigo e me diz se algum dia a gente vai ser mais que amigo. Então diz qual vai ser da gente. Fala de verdade o que é que você sente. Não mente, vai. Seja sincera comigo e me diz se algum dia a gente vai ser mais que amigo. Então diz qual vai ser da gente. Fala de verdade o que é que você sente. Não mente, vai. Seja sincera comigo e me diz se algum dia a gente vai ser mais que amigo. Já faz um tempo que eu tô te querendo, você tá sabendo, mas nem liga. Quer ser minha amiga? E só instiga, é sempre assim. Se eu tô afim, é só no fim que você cola. Da ideia, da bola, da entrada, mas nunca rola nada. De novo na mesma balada. Eu de canto e você dançando, toda empolgada. Se eu tento resistir, você vem, joga um charme. Até parece que bebi aquele chá de Santo Daime. Porque eu fico doidão, prestando atenção no seu jeito. Quando a gente tá juntinho, sozinho, eu não aguento. Cansei de pesar, me humilhar, sei lá. Até parece que preciso de otamina pra me consolar. Te chamo pra sair jantar, mas nunca dá. Antes de dormir é pra mim que cê vem ligar. Gata, cê me trata com carinho, daí me chama de ursinho, mas não me abraça quando vai dormir. Diz qual vai ser da gente. Fala de verdade o que é que você sente. Não mente, vai. Seja sincera comigo e me diz se algum dia a gente vai ser mais que amigo. Então diz qual vai ser da gente. Fala de verdade o que é que você sente. Não mente, vai. Seja sincera comigo e me diz se algum dia a gente vai ser será mais que amigo. Será que você não se... Tu me provoca, mas na hora H sempre me... De louco e finge que não sabe de nada. Abandonada se eu não chego junto. Se eu não te ligo, cê me liga mesmo sem assunto. Pra dar bom dia, saber como eu tô. Mas diz que é a durona e não acredita em amor. Por favor, vê se pensa bem no que faz. Vai que um dia o jogo vira e você corra atrás. Scusa, scusa, c'è da parlare io, eh. Che è sta situazione? Ora si è creata qui tutta la gente a parlare di calcio storico. Vabbè. Allora, siccome mi hanno lasciato da solo, in realtà non ho niente da dire se non ri-ricordarvi per la ventesima volta che è uscito Only for the Bambine. Un EP, si può dire EP. Ah, scusate, dalla regia mi correggono. Allora è uscito Only for the Bambine, il lavoro di Biga, dove lui ci ha messo i beat e poi sopra ci trovate un sacco di gente, c'è Esa, Dre Love, tutta la banda Overnights, Mille Lemmi, Daretta, lo Zac, eccetera eccetera. Sì, ma io mi parli ma non ti sento, c'ho le cuffie, vecchio. Vai lì, vieni anche te a dire le robe, dai. Non mi lasciare da solo. Sono anche cantina sociale. Cantina sociale, esatto, esatto, esatto. C'è DJ Galessio, ci sei anche te. Ci sono anch'io. Esatto, Colossius. Basta, no? Si sono detti tutti. Ma più di questo. Non voglio lasciare fuori nessuno. Ok. C'è anche Tesla, c'è anche Tesla. E Tesla, è vero. E poi si voleva di? Che esce lo Zac. Ah, è vero, esce beat a confronto nuovo in settimana, assolutamente. Qualcuno già si immagina di chi si sta parlando, perché Andrea Mi ci ha fatto fake pubblicità quando eravamo a mettere fuori lo scorso numero, quello di Drums. Ora, per chi l'aspettava, mettiamo fuori il quinto volume, dove i beat ce li ha mandati il nostro caro Zac. Le bombe da Berlino, eh. Le bombe da Berlino. Quindi andate a prendervi la puntata se non ve la sentite stasera e... Aspettate un giorno o due e poi vi prendete anche il nuovo beat a confronto e andate a stare proprio da Dio. Da Dui. Buono, tocca a Duccio. A Dups. Yeah. Thank you.

my mind when I put your cruiser out. From London, I saw 15 plus one. My manner, when we push the cruiser out. Toyota, color is silver, I make the ghost track full of comfortable. This style of chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to me proper. Just like a little bit dip on the step of dirt, dip on the color name, brand on the sweater. Check this one, the real chopper, originate styles that's better. Director, coming sharper, make the roller come fling down this one. This style of chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to be proper. Listen to the sound of thumping heavier. A girl when bumper, I truly looking so hotter. Them alive and leave. Coming through, they look southern. coming through. You look southern. It's a battle of the fittest. Unexpected people. Blowing up the spot. Bring it forth. Ready to erupt. Love. Senti il tappeto. Yo. Che fai? Vuoi parlare un po' di Only for the Bambine o... Con questo romantico. È chiaro. L'ho messa apposta. No, vecchio, niente, sono contento. Sei contento? Stavo un lavorone. L'ho accusato, devo dire. Sei contento? Sono contento, I'm happy. Perché è uscito... E quello è l'importante. E quello è l'importante. Siamo alla salute... Sì. Tutta cosa. È tutto buono. E l'ampredotto è tutto È buono. Chiaro, sempre. E le bambine. E le bambine. A parte l'ovvietà, tanta roba. Sono contento che sia riuscito a mettere tutta sta gente insieme in un progetto solo. Gli abruzzesi, Naga, che è mostrissimo, e Cantina Sociale, e Overnights, ce l'abbiamo fatto a metterceli tutti, non manca nessuno. Digi, Tesla, quindi anche Manu, Johnny Boy, Moro, Dare, Bubu, anche. Beh, poi c'è Esa. Soddisfazione. C'è poi Andrea. C'è Esa, c'è il Dre, cacchio. Dre Love. Insomma, c'è un monte di gente. Sì, sì, no, sono contento. Buono. E qui ve lo potete scaricare sul blog di Overnights, overnights.blogspot.com, o sul Bandcamp di Overnights. Free download, ovviamente, 320k per te. O storia di WAV, storia di Flack. Storia di Flack. Le scarichi in Flack. Se tu vuoi. Ti piglia mezzo hard disk. Le scarichi in Flack alla Fnac. Alla no. Fnac, solo alla Fnac si scaricano Flack. Dai computer di Asun ce la fai. Devi dare la password. Devi andare alla Fnac, devi andare. Yo. Tommy si tocca le reni. Le reni, attenzione, hai voluto essere corretto, bro. Perché si dice le reni? Si dice le reni. Ah, figurati. Però io di sempre dico i reni. Anch'io, non so come mi è venuto fuori le reni. Anch'io di solito dico i reni. Bene, si può lasciare andare Tommy, in chiusura. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, stessa ora, stesso posto, stesso film, chiaro, alle 21 su Controradio. Yo. Thank you.